abbiate notato come praticamente tutti coloro che si sono occupati della strana faccenda di Abdullah Öcalan su una cosa, nella diversità dei giudizi e delle valutazioni, si sono trovati d'accordo nell'affermare che il nostro governo, permettendo al leader curdo di mettere piede nel nostro paese, è caduto meschinello in una vera e propria trappola. Su chi l'abbia tesa, se i curdi, i russi, i tedeschi, i servizi segreti, gli onorevoli Bertinotti e Mantovani o chi altri, le opinioni sono diverse. Sul perché D'Alema e i suoi ci si siano lasciati invischiare, se per inesperienza, inettitudine o volontà di attenersi rigidamente alle prescrizioni di legge, ciascuno è libero di dire la sua. Ma che trappola non ci sia stata, non ci piove. Tanto è vero che il problema per tutti oggi è soltanto quello di come uscirne, rispedendo Öcalan al mittente, ammesso che un mittente si riesca a individuare, o se proprio rispedirlo non fosse possibile, mettendolo sotto chiave e buttando via la medesima, dopo un opportuno processo per terrorismo che potrebbe svolgersi direttamente di fronte alla nostra magistratura, nella quale in effetti allignano magistrati bravissimi a ridurre la categoria del terrorismo a qualsiasi contrasto politico radicale, o davanti a un'apposita Corte di Giustizia internazionale che Dio solo sa in base a quale mandato ci si propone di istituire. L'imperativo categorico, in ogni caso, resta solo uno: liberarsi di quello che, nonostante le sue evidenti caratteristiche di leader politico e più in generale di essere umano, si è ormai ridotto a un ruolo certamente meno problematico di patata bollente. Personalmente io non sono un esperto della questione curda, anche se qualcosa in merito credo di aver letto, e non saprei certo rispondere ai problemi che a quanto pare interessano i più. Se Öcalan e il suo PKK siano abilitati a rappresentare davvero il loro popolo, ma non credo perché negarglielo, visto che non pretendono l'esclusiva, e se nella conduzione della guerra contro i loro oppressori siano ricorsi o meno a metodi particolarmente censurabili. Suppongo che di azioni degne di censura ce ne siano state a iosa, anche perché sono convinto che è difficile combattere una guerra qualsiasi senza commettere ogni sorta di puttanate. Ma che Abdullah Öcalan sia in ogni caso un cittadino straniero cui è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, che è l'unica condizione a cui la Costituzione stessa subordina la concessione dell'asilo politico a chi lo richieda, mi sembra non si possa in alcun modo negare. E visto che quello di asilo è un suo diritto e lui ne ha chiesto l'applicazione, non vedo proprio come glielo si possa con tutta la buona volontà rifiutare. Poi naturalmente si potrà decidere in opportuna sede se convenga o meno al governo appoggiare le proposte politiche del PKK e, nel caso che il suo leader venga accusato di specifici reati per cui sia competente la magistratura italiana, lo si potrà, anzi lo si dovrà processare. Ma questi due problemi, la cui gravità mi guardo bene dal sottovalutare, con la questione dell'asilo politico non c'entrano proprio niente. Sarà per questo forse che il ministro dell'Interno, che Dio la perdoni, ha avuto il coraggio di dichiarare martedì scorso che il motivo per cui il problema non è stato ancora affrontato è di natura essenzialmente burocratica, non avendo il richiedente compilato i moduli necessari né presentato la documentazione prescritta. Dichiarazione che ha fatto ridere molti, ma che dovrebbe naturalmente farci piangere tutti, soprattutto in considerazione del fatto che, nell'eterno contrasto tra volontà politica e renitenza amministrativa che caratterizza la nostra storia repubblicana, il costante trionfo della seconda è stato sempre determinato dalla volontà dei detentori del potere di eludere la prima. Richiedere le carte, impuntarsi sui vizi di forma e sulle lacune di documentazione, anche quando ogni documentazione è impossibile perché come diavolo fa qualcuno a dimostrare di essere oppresso, presentando un certificato dell'oppressore, e fare tutto questo è un modo caratteristico della nostra classe dirigente di sottrarsi ai propri obblighi, quelli di legge compresi. Provate a fare un giro di controllo per i commissariati davanti a cui s'accalcano in questi giorni quei disgraziati che aspirano alla sanatoria per poter contribuire legalmente a produrre la nostra ricchezza, e vedrete. Naturalmente non è questo il caso di Öcalan. Per lui le necessità burocratiche sono solo una scusa, ma non mi stupirei se a questo punto lo sciagurato non cominciasse a chiedersi se in trappola per caso non sia finito lui. That's right.